Smart City, voci e luoghi dell'innovazione. Buonasera da Maurizio Melis. Questa sera a Smart City riapriamo il capitolo della chimica verde che, come vedremo altre volte nel corso delle prossime settimane, è un capitolo in cui l'Italia ha molti progetti in corso con un livello avanzato di sviluppo e altrettante idee pronte a uscire dai laboratori. E allora andiamo per cominciare a Genova, al Dipartimento di Farmacologia dell'Università degli Studi, dove è stata messa a punto una procedura innovativa per produrre soluzioni ricche di polifenoli dagli scarti vegetali. Sulla base di questa procedura ora sta anche nascendo una startup. Coordinatrice del lavoro di ricerca, nonché fondatrice della startup, è la dottoressa Carla Villa, che è in linea con noi. Buonasera Villa. Buonasera. Allora, intanto insomma, ci ricordi subito che cosa sono e soprattutto che proprietà hanno questi polifenoli? I polifenoli si trovano in tutto il mondo vegetale, nei cibi di origine vegetale, sono molto interessanti perché hanno un sacco di proprietà di attività antiossidante, protettivo cardiovascolari. Avremo sentito parlare forse, ora, per non andare nello specifico, di catechine, antocianine. Sono, per esempio, le antocianine sono quelle che danno la colorazione alla frutta e alla verdura, ecco. I tannini, per esempio, che sono quelli presenti nel vino rosso in particolare, anche nel vino, no? Sì, certo, sono quelli che in particolare, appunto, quelli che danno le colorazioni giallo rosso anche nella frutta, nelle arance. Insomma, hanno delle proprietà cosiddette nutraceutiche abbastanza, direi, ben stabilite, ecco, perché questo è un settore scivoloso in cui viene anche venduta tanta fuffa, invece qui diciamo le proprietà sono piuttosto chiare. Ecco, in che cosa consiste questo processo di estrazione innovativo che avete messo a punto e che vantaggi ha rispetto alle tecniche già note? Il processo noi lo consideriamo sicuramente un processo più compatibile di altri processi, perché utilizziamo gli scarti delle aziende agroalimentari, sì, in particolare di frutta o dei vitivinicoli, e attraverso una procedura microonde che non prevede l'utilizzo né di solventi né di acqua di rete, quindi un processo chiuso, sfrutta proprio le acque ancora presenti all'interno della matrice vegetale esausta e ne estrae un'acqua particolare, l'acqua della pianta stessa, l'acqua di vegetazione della pianta o del frutto, che si trascina dietro anche tutti questi polifenoli idrosolubili che rimangono nella buccia, perché una cosa da dire è che proprio nell'uva e in altri frutti rossi la maggior parte di questi polifenoli si trova nella buccia, e quindi una volta che si centrifuga o si spreme o si pigia, la parte migliore resta ancora. Infatti voi avete addirittura provato a usare i succhi di frutta e tirate fuori più polifenoli dalle bucce che dai Abbiamo succhi, no? Abbiamo fatto un paragone della conta di quantità di questi polifenoli, e in alcuni casi sì, nel mirtillo o comunque nella vinaccia ci sono delle quantità paragonabili o superiori a quelle, per esempio, anche del succo di melograno, che oggi è considerato uno dei maggiori antiossidanti che ci naturali, sono diciamo, come integratore. Tra l'altro utilizzate come materia prima quello che è uno scarto di produzione, che spesso è anche difficile da smaltire. Certo, sono soprattutto per quanto riguarda le industrie alimentari, per esempio negli scarti dalla spremitura della frutta, si hanno dei grossi volumi che hanno un alto impatto ambientale, difficili da smaltire. Noi diamo una seconda vita allo scarto, inoltre il prodotto si riduce di volume e si essica, per cui potrebbe essere utilizzato per produrre energia. Certo, perché voi usate il microonde, quindi non resta quasi acqua lì dentro. A noi interessa proprio quell'acqua lì, quindi certo. E resta un ottimo combustibile. Esatto. Veniamo a questo punto al progetto Acadermica, ovvero anche la nascente startup. Intanto l'anno scorso avete vinto il premio Startup Liguria, siete arrivati una grande soddisfazione. Sì, finalisti anche al premio nazionale per l'innovazione, credo quarti. Ecco, qual è l'obiettivo di Acadermica? Acadermica, con i risultati che sono stati ottenuti con l'università, si è prefissata di mettere insieme le competenze della ricerca per quanto riguarda queste acque essenziali e le competenze multidisciplinari anche di altri esperti, cosmetologi, benché io mi occupi anche di cosmetica perché insegno questo all'università, e sono stati studiati dei formulati cosmetici che permettessero di inserire all'interno questi estratti ricchi in polifenoli, quindi creare dei prodotti cosmetici più ecosostenibili, ma soprattutto con delle sostanze funzionali all'interno con proprietà antiradicaliche. Abbiamo chiesto riconoscimento come spin-off universitario dell'Università di Genova, del Dipartimento di Farmacia, che è stato rilasciato alla fine di febbraio, quindi noi siamo in fase di costituzione al momento. Questo mese qua proprio dovremo essere costituiti. Grazie, grazie Villa. Grazie a lei. Ci fermiamo qui, appuntamento a lunedì.